Chi è? Chi è? Avanti! Chi è quel piratone? Se c'è un gruppo fritto, chi c'è? E c'è il tuo gruppo? E c'è il tuo gruppo? Leoncino, ci sei? Giuseppe, Leoncino. Hola, hola, Giuseppe. Buffo! Graziano! Ehi! Ciao, amore! Aspetta, mi sto guardando questo! Cosa stai facendo, Grazia? Dormito, sì. No, mi stavo guardando una cosa qua. Su internet. Che tu di qua fai? L'arriva i carabinieri e cosa fatto? Porti qua a te in mano ai carabinieri e chi tu l'ha denunciato e arrestato? Corruzione al pubblico ufficiale. Ed era stessa patente e l'hanno arrestato. Ah, non ho capito, è carabiniere? C'era a posto di blocco, hanno fermato questa vettura ed è stava guidando il cinese. Questo cinese ne parla della pubblica, si può avere in mano i carabinieri. A chi era stessa patente? Alla all'andanno. E i carabinieri erano in due, l'hanno denunciato e arrestato, guida senza patente, corruzione al pubblico ufficiale, capito? Ahia, ho capito. E vabbè, cosa vuoi ti dica? La salute va. Vuoi dire che sono abituati a usi? In Cina saranno abituati a usi? Oh, in Cina sono quanti dei pubblicoli, Marco, quindi... quindi... chissà quanti venivano già senza patente. Non lo vedi quando danno quei documentari della Cina, ti pare di tante pulmicoli di zettai. Figurati di fare battenti, Giulia. E beh, cosa hai fatto? Scusa Grazia, che stavo guardando, stavo parlando con Marina. Adesso sono uscito a prendere le crocchette al cane, poi sono passato in un negozio e ho preso un bomber, bello mi grazia, se lo vedi è molto carino e l'ho pagato anche poco. Costava 50 euro e l'ho pagato un bomber, bello. Ma non lo so con tanta roba sotto. Ed è anche caldo. Adesso ti mando la foto, aspetta. Ce l'ho io. C'è lì anche su internet, l'ho visto in offerta. Mi pare 20 euro, una cosa del genere. Adesso ti mando la foto, aspetta. Poi indossato è bello, comodo, guarda. Ho speso poco, ho preso una cosa buona, perché alla fine erano quindi di centurio motivati un prima, un giubbotto di 200.000 franchi, lo pagavo 250.000 franchi. Sono finiti quei tempi. Speso poco, ho preso, credimi, un giubbotto bello. Sei uguale al mio, tipo il mio, è blu, ce l'avevo io, ce l'avevo anche l'altro giorno che sono andato dal pulmologo. Antivento fa anche questo. Quello va bene anche quando c'è vento. Già lo so, grazie. Aspetta un attimino che qua devo sempre lavorare, che devo tagliare agli effettembolo a Marina, aspetta. Coraliso. Quindi lavagliatevi, no? E non ce l'hai con la mano bella, metti gli spicchi dell'aria, il frattempo abbasso il coperchio, fa schiacciando e girando a mano e te lo spicchi 2 minuti. Grazie, abbiamo quello elettrico che mette dentro l'aria del prezzemolo, lo fa trrr, non 2 minuti, no, 2 secondi ed è pronto, solo che lui si lamenta sempre. Ma pure battaglia. Ce l'ho anche io quello, anche grafico, anche il parmigiano, il pane duro, lo taglio, no, perché non è che sia grande grande, e lo stritto sia prezzemolo, pane grattugiato, parmigiano, tutto quattro. Però quando ne devo usare poco c'ho anche quella a mano, 2 minuti e fai veloce lo stesso, se ne devi fare poco. Se ne devi fare un po' e conservarlo nel pozzetto, prendo quell'elettrico. Fallo lavorare a Luca, imparali almeno a fare il fuoco. Grazie a Luca. Per carità. Ti impari così quando cercano un aiuto cuoco, ci vai, magari ti pigliali, capito miei. Basta fare le prove sempre. Ciao Graziano, ben sentito. Ciao Vittorio, credevo che ti avevano buttato chissà dove, come mai non ti sei sentito ieri? C'è la raga. Anche Gio Maria ti stava cercando. E io ho detto, sarà impegnato, ne le hanno fregato la radio lì dai salesiani. Vabbè, ma salesiani dove andrà? Ehi, in compagnia di Luca sono, te lo mando avanti, Luca mi ha vittorio. Vabbè, Luca stava trittando il prezzemolo, tritta tritta. E perché? E tu grazie a cosa sei? Niente, ieri era visita di controllo dall'oculista. Perché vogliono chiudere i salesiani? No, perché in pratica a Svezia oggi c'era brutto tempo e l'hanno chiuso oggi. Ebbene, in effetti oggi è brutto tempo e c'è anche freddo, poi sta sempre piovendo. E poi poco fa, oggi è mancata 2 o 3 volte la luce anche. Vabbè, ma al minimo domani c'è la festa, perché quando si vede il visore domani dovrebbe fare bella giornata, perlomeno così ha detto. Poi bisogna vedere se è vero. Perlomeno io ho visto il tempo e dice che fa sole. Vediamo. Luca, e beh, tritato lo hai il prezzemolo. Allora io prima cosa faccio? L'ho lavato, l'ho asciugato, adesso sto tagliando solo le foglie, il rami lo ritaglio, li butto e poi tritto tutte le foglie. Beh, il rami no, ma quelli teneri teneri li puoi anche trittare, quelli grossi che li butti, ma i rami si teneri, li puoi trittare. No, io solo le foglie e basta. Io quei rami sì, i morbidi, quelli li fritto insieme alle foglie, quelli grossi che li butto. Vabbè, Maria ha detto come fa, tu hai fatto normale, io ti dirò invece. Se no, piglia, no, è piegato, già si illumina. Ma secondo cosa devi fare? Ci puoi mettere anche solo i rametti, se non li devi mangiare, tanto per insaporire, e poi li butti una volta che li hai adoperati, non so, a cucinare per insaporire qualche cosa, capi? E poi ci li butti una volta che li hai adoperati. Sì, vabbè, grazie. Ma io dico, parlo, se ne hai un bel mazzo grosso, lì ne vale la pena, capito? Proprio per non buttarlo. Ci sono pochi, sono bastati 2 minuti. A meno che l'indomani non devi cucinare qualche cosa, ti puoi utilizzare l'indomani per insaporire, già sono buono lo stesso. Li puoi usare anche come preparato, lo triti, e invece se non c'è le foglie, lo triti, lo metti in barattolino, un vasetto con l'olio e insaporisce l'olio, aglio e prezzemolo, capito? Aglio, prezzemolo, peperoncino e quell'olio tu quando ti serve lo colli, tanto che ti serve. Lo puoi usare per la pasta se ti piace, il piccantello e il saporito così, capi? Sì, grazie, ho quasi finito, aspetta. Guarda che in cucina gli chef non ci buttano quasi niente, non lo sapevi? Ciao, ciao Vittorio. E lui come stai? Sta a posto? Oggi ho saputo dire, lo chef. Di solito lo fa Grazia, non lo sta facendo io. E tu Grazia non stai preparando nulla per quasi per le 7:15? Ma in giro sì. Vittu, in giro sì. Eia. No vabbè, non proprio in giro, ma... Chiamato mi hai? Cos'è Grazia, non ti ha inteso? Chi è chiamato? E a chi? Ho detto se mi avete chiamato che mi sono spostato. Ah sì, ti ho chiamato per dirti cosa stai preparando. Oggi niente, polenta con la salsiccia e peperoni con il pollo alla cassarola peperonata là. Ma sei mi sembri con infami, oh Grazia, ma io non vengo non so come niente, io di pollo e peperoni, se mi invita a casa a mangiarli. Ma qui siamo già di troppo, vedi, Luca che sono soli loro, ti puoi invitare, Luca? Io sto cucinando 2 melanzane, metà a me e metà Marina, non venuta. Fai qualcosa e ti dà pure a lui, non c'è problema. Tu sempre accusa a ciappi i vecenti. Lo fai con me, lo fai con Gio Maria, con tutti, con Luca, Flipper, con tutti lo fai. Devi dire, non invita nessuno, cosa c'è in chi e siamo in troppi, fa un raggio. Guarda che ci ho invitati io qua sempre. Devi essere tutto, corretto, invita nessuno. Non dire che vai invitato a che non venisci uno, io so così bene cos'è no, che non venisci uno. No, qua ci sono sempre gli invitati, te lo bene. Adesso che non c'è mi sembra è uscito, però più tardi già vengono gli invitati. Non ci credere Vittu, lascialo perdere. Sì, va bene. È un po' di impasto eccezionale. Pollo e peperoni. Ma oggi mi sembra un pochettino... Ho messo mai il polletto e peperoni. Non potevi farlo un altro giorno. Polenta con la salsiccia. Luca, ma ti mangiato un poco di spaghetti al sugo. Un poco di polenta. Un po' di peperoni con un pezzetto di pollo. Un pezzo di cacio. E una banana. Ah, Vittu, tu dici che non mangia? Ah, ti rendi conto? Vedi me mangia? Come si grazia? Tu, così è? Guarda! Paletta, ma fai dare, ma Vittu! Ma, non ti dai vista! non finisco. Mi invita c'è mia Vittoria Marina, io, veniamo adesso, domani, boh. No, oggi non fa che c'è freddo, c'è umidità, oh. Allora, mi raccontami, c'è umidità, oh, fa freddo. Grazie, mamma mia, un altro giorno che c'è bella giornata, sole. E proprio quando è bella allora si può anche fare. E Oggi è bruttissima giornata, il vento, acqua, per carità. Poi c'è un sacco di umidità oggi. Oh no! Non va bene quando fa il tempo così. Non puoi uscire da nessuna parte, sta piovendo. E poi dove vai? Ma in città non c'è più niente. Oh, è tutto deserto, tutti i negozi chiusi. Dove vai? Città mercato. Ma già ti tiro fuori, non è che ti sento bene bene, ti ho sentito più bene altre volte, ma già ti sento. No, vabbè, se mi sento benone, chiaro chiaro. E beh, io sono in alto. Ma tu sei all'ultimo piano, no? Ah! Tu sei all'ultimo piano, no? Ehi, io sono all'ultimo piano. Ah, per quello, e vabbè anche io, anche il mio amico già prende bene lo stesso, ma poi dipende dalle apparecchiature. Dipende anche la zona dove sei, capito, se non ci sono ostacoli, se non ci sono ostacoli già ti sento bene. No, vabbè, ce n'è uno che abita vicino alla Brutti Butti, ma è benone, insomma, no? Io sono neanche vicino. Questo vecchio io batte di più di 10 km. Di 100 km, no? Questo qua, con questo vecchio io, ho può parlare più lontano. Vabbè, i vostri già sono più professionali dei miei, vabbè, anche i miei sono professionali, vabbè, perché i miei prendono 10, da voi il minimo li avete pagati, minimo più di 100. Poi se hai anche la serna, parli dappertutto, capi? Già lo so. Io ce l'ho anche con l'antenna esterna. Ah, con l'antenna esterna, addirittura. Questo qui lo uso così, quando non lo voglio attaccare quello là, mi attacco questo, accendo questo, capito? Quello là è stazione fissa, no? Ma se tu quale c'hai? Quello portatile o quello fisso? No, c'è un portatile adesso, si chiama GC3 TP. Ah, ce l'ho già detto. Questi sono professionali, non è che sono giocato lì. Io all'altro vecchio è professionale lo stesso. E quelli sono più potenti. Vabbè, quindi quando li ho comprati non sapevo neanche che fossero professionali. A me me lo stava dicendo dal primo giorno. Ma ci sono tantissime marche, ce ne sono più migliori e meno migliori, capito? Non è che sono tutti uguali, capito? Molti hanno altre caratteristiche che magari hanno più frequenze, più altre cose, capito? E allora costano di più, però le frequenze anche di origine che si avrà. Vabbè, già lo so, dipende sempre dal modello. Io quello che ho io è un Brunti, mi sembra si chiama FX 390, mi sembra. Sì, così c'è scritto. Per dire, questo nel display posso cambiare frequenza perché mi appaiono due frequenze. Schiaccio un tastino e faccio un'altra frequenza senza fare niente, capito? Poi c'ho l'altro che addirittura ne ha quattro di frequenze nel display. Schiaccio un tastino col microfono e vai alla frequenza dove vuoi. Vai subito. O se no lo metti in automatico e te la cercherà solo la frequenza, capi? C'hanno un sacco di adattamenti qui e costano per quello. Glielo so anche io, ma in automatico lo faccio un cazzino, mi fa per automatico. C'ho anche il microfono di questo qua, questo te lo metti in tasca e ti appendi il microfono alla camicia e puoi parlare così col microfono, capito? Senza toccare la radio. Ma Vittorio, il tuo è canalizzato, non ha frequenza, è canalizzato. Cos'è? Di che stavo parlando? Luca, Lu, retro subito, riprenditi. Sì, spiegaglielo tu. Canalizzato non è a frequenze. Ah sì, è vero, c'hai ragione, egli è canalizzato. Perché diciamo che il mio è un modello, vabbè, sempre professionale, ma egli è canalizzato, diciamo che invece è a frequenze. Ehi, ha canalizzato. Allora, se vedi antenne ti spaventi proprio, tralicci alti 30 metri, tassuti. Io sono in cucina adesso, non sono in camera. Ma dove sei? Ma Salesiani? No, mi stavo aprendo un bitter, mi ha mangiato due arachidi. Mi stavo aprendo un bitter. No, stavo preparando le melanzane al forno. Ma mi sa che non ne mangio. Troppo pesanti la notte, mangio altro, adesso vediamo. E se non mangio frutta, che se ne ha frutti? Non andare a mangiare frutta. Che è venuta mia moglie, aspetta un minuto. Cos'è che la stanno? Non ti ho sentito. Rientro subito. Che ritorni subito? Eia! Puffo! Dimmi lui! Ma che facendo c'è? Niente, la paletta. Ah, balletto era. Ehi, a quella scuola di danza che va. Oh, io porto la settimana alla scuola, imparano bene. Ho capito. E poi quando imparano certi balli si fanno le sfide tra scuola e scuola, capito? Questa scuola con un'altra scuola dei paesi, capito? Ciao Claudio, se mi senti. Beh, Luca, ma cosa stai facendo? Luca, ma mangiando stai, bella bene. Tore, sentito che Vittorio. No, a Tore Squalo, non si è sentito, no. Secondo me si da mangiare un'orca. Ma chi, Gio, ci sei? In campagna sei? Giuca, cosa stai facendo? Grazia. Dimmi. Io ieri c'ero. Ma quando sono venuto dalla visita dell'oculista l'ho acceso. Prima, dopo le 5 e mezzo, là l'ho acceso. Tu non lo portare più a quell'imbecille. E se no poi ci passi tu per colpa tua. Se la prendono con te dopo. E tu non lo portare più insieme a te, se no fa fare brutte figure a te. Ma tu lascia di perdere quelli che fanno danno e buh. Che poi per colpa di loro ci passi pure tu, perché dicono che gliel'hai detto tu, che li hai portati tu, capito? Se la prendono con te. Tu quando magari sei lì e ce l'hai la radio e per caso ci sono loro, non deve fare neanche vedere, se no quelli la vedono a te e cominciano a rompere le palle. Quelli si comportano male e poi se la prendono con te e dopo secondo chi ti sente viene lì e fatti guai tu. È logico, se fa rompere scatole. Se vuole parlare nessuno glielo priva, basta che si metta in regola e non rompe le scatole, parla anche lui, basta essere educati. No, allora, vera uno, vai e caga, vai e girami i coglioni, scusando il termine, secondo te cosa devo stare zitto? Quello non è rispetto. Perché secondo a chi trova, si sta zitto, viene lì o prende a calcio in culo. Poi che venga il padre, venga lo zio, venga il nonno, poi ci vai tu. È come se io entro, faccio un esempio, io sono un nuovo, entro, inizio a dirti tante parolacce, a te non li accetti. Ma dici, la prima volta mi ci smetterla. Se continua, poi tu magari ti stai zitto, magari sai dove è la persona, vai e lo prendi a schiaffi. Aspetta, secondo chi trova non dice niente, viene lì direttamente poi, che su che ne si piglia, non c'è da scherzare, guarda che qua anni addietro, ti parlo di tanti anni fa, quando io sono baracchino, sono tanti anni, e ne ho sentito che gente che ha pigliato giaffi, gente che faceva lo sciamo al baracchino e poi sono andati e andavano a pigliare schiaffi. Quanti anni hai tu? Io ne ho 29 più di te, vedi un po'. L'altro mio ne avrà 40 più di te. Manco nato eri tu, manco nato. Io ti parlo di 20 anni fa, forse 25 anni fa, che è successo. C'era uno che disturbava e l'hanno trovato, ne hanno buttato la porta giù di casa. Ha pigliato goipi e ne ha ripiato tutti in radio. O i baracchini va via. Chi era? Ma io, chi era? Beh, non ti puoi giocare tu 12 euro annuali, poi per prenderti una multa, non so, quelli 3.000 euro mi pari. E poi ti portano anche in tribunale. Capito? quella statale è questa, non c'è da scherzare, bisogna stare attenti, non ti puoi rischiare tu, se non pagare tu 10 euro per poi prendere 2-3 mila euro di multa, ma non esiste, è proprio da guasti, Mi senti Luca? Tiro, adesso sì. Vabbè, dai, cosa no? Il gommino, uno ha fatto all'altro, chi è che stava disturbando? Adesso non ti sento più Tino, a tratti. Aspetta un attimino, adesso mi senti? Vedi un po', uno, due, tre. Forte e chiasso. Ma sta a dire, no? Che vero? Ciao Tino, ben sentito. Buonasera, buonasera a tutti. Dov'era il distributore? Allora, glielo stavo spiegando, perché siamo in tanti dietro un microfono, no? Bisogna stare attenti a come si parla, perché non sai a chi trovi, come lo stavo dicendo l'altra volta, se ti ricordi, Tino. Magari lì si sta zitto, la persona va direttamente e sa dov'è, perché l'ha detto prima dov'era, e si prende i calci nel sedere, no? Tu cosa ne dici? È successo una volta al quadrato, ci stavamo parlando, noi eravamo a casa, siamo usciti in 5 in macchina a cercarlo, l'abbiamo trovato al quadrato facendolo stupido, l'abbiamo circondato. Ti lascio immaginare, va. Sambuino, io, Gabino Celentano, Totalo 2 e compagnia cantante, ce li hai conosciuti anche tu, quindi abbiamo fatto Massia. Sì, c'era qualcuno che stava parlando sotto, mi sa che era Vittorio. Sì, mi ricordo vagamente, diciamo, là, perché magari ero alle prime armi, comunque già mi ricordo questo fatto. Ma mi ricordo un altro fatto, che uno gli aveva buttato giù la porta, che rompeva le scatole. Vittorio, cosa stavi dicendo? No, infatti, purtroppo non lo sai chi c'è dietro, siamo tutti bravi, no? È come quello che ti offende dietro un computer, no? Che fa il gradasso, che ti offende tua madre, tuo padre, tutta la tua generazione, come a me è capitato, ma ti parlo di gente, di siciliani, come si chiama, napoletani. Tutti bravi siamo a fare i forti dietro un computer, scrivere siamo tutti capaci, poi bisogna vedere di persona. Io il forte non lo sto facendo, ma tu mi stai offendendo i morti anche, vedi un po', anche i morti, ti scavo tuo nonno, tua nonna, ma sai cosa che mi ha detto, non è idea. Vabbè dai, signori, che devo uscire, ci sentiamo, dai. Statemi bene, tante cosce belle, divertitevi. Ciao. Ciao Tino, avanti, grazie. Ciao Tino, buona passeggiata, tappa di vecchi e più belli. Alla prossima, vai Lu. Sei Lu, lo sento basso basso, grazie, va. Salutamo tu, ciao a tutti. Riprendi Lu. Oggi Gian Maria non si è sentito, neanche Torre Squalo. Gian Maria è cuccato. Vediamo se c'è Bacchigio. Bacchigio! Ciao! Ciao, ciao! Bacchigio! Ciao! Esci dal cavolafiore! Non è cavolafiore, è roba sagra! Cosa hai fatto? Ehi, buonasera a tutti, belli e brutti! Penso così bene, grazie, non è capo la fiore, roba salsa. Buona, buona, tutto è buono, basta sia Vittoria. Insieme a Luca sono a Vittorio. Cosa però ha chiuso perché doveva uscire? Tino. Non c'era, Tino è sempre veloce. Capito, avanti Luca. Ciao Bacchi, no, mi stavo telefonando ma non so di chi è questo numero, aspetta che provo a richiamare, ma sicuramente è qualche call center. Va bene, chiamalo, chiamalo. Vittorio, mi ascolti? Sto ascoltando Vittorio, tutta ratta, graffiante, spostati un po'. Attenzione, Graziano, cambio Grazie, Vittorio, lo sento io. Eia, Vittorio, non ti ha sentito Marchigio, si sente male. Evidentemente sei in una posizione negativa. E tanto, a me Marchigio, dato vai quel, con la radio a controllare. Non ho avuto tempo, Luca, ad andarci, perché sta piovendo e dunque non mi sono mosso da nessuna parte. Domani ci fa bella giornata, ci vado a vedere. Siccome devo portare anche un altro, devo portarne due, non uno, due. Siccome? Domani ha messo 30 gradi, 35. È quello che vuole. Andiamo bene. Squalo, Tore, ma le cose, grazie, non hai sentito. Non lo sento io, Vittu. No, Tore, evidentemente è passata un'orca, ci l'ha mangiato. L'ho sentito ieri sera, l'ho sentito. L'avrei sentito, io sono da parecchio e non lo sento. Ieri sera era in radio, ha fatto una ventina di minuti in radio, ha fatto. Capito, non so se Luca l'ha sentito. Luca, l'ha sentito tu? Adesso stavo pensando, ricostruimi questa antenna con la canna da pesca, faccio dare le misure da Luca, me la costruisco, vediamo un po'. Se la posso fare da Ed direttamente, così me la tare tutto. La canna da pesca, che cosa l'ha fatta Giulio l'ha costruita? Ah, oh, una canna da pesca, così dicono che esce bene. Poi c'è la canna da pesca, però se riesco a portarmela su. Aspetta che sta squillando il telefono, rispondo al telefono. Eia! Perché all'ultimo piano lì è come qua, c'è la bottola, la apri, apri la finestra, portati la scala su e salti sul terrazzo e te la attacchi dove ci sono le antenne della TV, stato mi pare non venire giù antenne in quelle staffe. Eia, ciao Vittorio, domani fai da bravo, non fare il bittatello. Ciao, vai lui. E chi ha chiuso? Ciao, ciao, che in ascolto, dai, vi saluto, ciao ciao. Ciao Vittorio, ciao. Ma chi c'è al telefono? Eia, comunque bello quel giubbotto, è bello, bello, ho fatto un bel acquisto. Ehi, è bello, ce l'ho io uguale a questo. Blu come quello là. Va bene, va bene. Ehi, che è buono, che andà via. Ce l'ho giubbotto, ne ho giubbotti, ne ho uno a casa, lo stesso, ma non mi piace, poi ne ho un altro grosso, questo va bene anche per l'acqua, non si inzuppa né niente, sì vabbè, certo se prende acqua di rotto si inzuppa anche quello, ma va bene. Ne ho a voglia di giubbotti e ne ho regalato anche se sta a mettere nuovi nuovi, ancora con l'etichetta, e ne ho a voglia. Eia. Vabbè dai, giornaliero, poi ce n'è una in macchina, mi buttato, lo dovevo occupato lì lo stesso, ma è leggero anche quello, infatti bisogna bucarli domani la macchina, tanto non ci fa niente. Due anni c'è in macchina, di più, sempre inchiodato un po', comparato, giubbotto, due voci, è nuovo mi grazia, però è un po' leggero come giubbotto. Quello se lo porti su, lo lavi e lo usi appena comincia a migliorare il tempo, sei più leggero, almeno ce l'hai più leggero e più ad operare quello quando cambia il tempo, no? E fa finire in macchina città di tutti la rovini. Lo porti su, gli dai un'altra quarta e te lo usi al periodo più migliore, da. Vabbè, quello va bene anche a me, ti metti una felpa sotto e te lo puoi punire, capito? Adesso me lo porto su, si lava e me lo usa anche quello. Vabbè, io in macchina l'ho sempre avuto un giubbotto, c'avevo una giacca della milizia militare in macchina, ma se volte per non rovinarmi magari il giubbotto che c'avevo, mi levavo quel giubbotto e mi filavo quello lì che c'avevo in macchina, quella giacca militare, capi? Specialmente se scendevo in campagna, me ne levavo quello là e mi mettevo quello che c'avevo in macchina. Sì, ho capito. Vabbè, comunque ci vuole sempre un giubbotto in macchina, magari capita che esci, hai capito, più leggero, e magari ti trovi in un posto che, insomma, sono tornare a casa a prendertelo lì. Ce l'hai in macchina, buonanotte. Allora volevo rimettere in macchina, ma è pulito mi. Lo ce l'ho messo una volta, mi sa, era già lavato. Ma comunque già ce l'ha da due anni lì. Una sciacquattina e buonanotte. Io c'avevo, ce l'ho ancora, uno zaino militare, dentro c'erano anche un paio di scarponcini, c'avevo dentro una maglietta pulita, tutto un cambio c'avevo praticamente. E quest'altro giubbotto qua, anche i golfi c'avevo dentro quello zaino. Perché magari ero così in giro, cosa mi dà? Mi capitava di andare a fare qualche cosa o in giro. Graziano, tu sono rientrato, ci vuoi essere Marino in radio? Attento Marino! Ti faccio il basso, ti sento Marino, non ho capito. Vediamo se ti ascolta Graziano. Graziano, ascolti Marino. Graziano, sto camminando, tu lo ascolti da chi? Io. Ti vado da chi, io? Graziano. Marino, mi ascolti tu? Sono ascolti. Ehi, era morta la batteria! Era morta se n'era, mi pare che sia tutto morto in Givi. Morta la batteria, Marino, lo senti? No! Come mai non ascolti, però? Sento, Marino. Ma chi sono? Buonasera, ciao Marino, Graziano, imbuttito. Ciao Squallo, mi aveva detto che un'orca si è divorato. Che sei, dottore? Sì, squalido, sedu. Certo, bebe. Ma è gazzegato da Marino, ma è gazzegato buro. Ciao Luca. Ciao, sto, e beh. Ah, te ne batti di vedi, sì. Un altro mi ha cazzeggato a Marino, ma non intendi di voi? No, negativo. Ma chi c'è Marito, c'ho cazzeggene? Io non lo sento! Ma chi? Tu non l'ascolti a Marino? Ma fa l'ascoltavo, adesso si è parlato, non l'ho ascoltato. Marino, avanti a ver se ascolti Bacchisio. Mi sa che non sta cosa. Marino! Oh. Deve essere sceso in cantina. No, c'è problemi con l'antenna. Non sento nulla io a Marino, niente, mi manco un rumorino. Ah, se mi senti a lei. Marino, fai uno scorreggino e se ti ascolta. Ascolti, grazie. Poi sei un anziano, cambio. Andà, due. Chizia. Ari, forse non ti ascoltano, Sono subito. Non ti ascoltano per niente loro, bubu. Se lui da cosciuggi, andave, certo. Ma chi? Ma non ascolti a Marino, no? No, poco fa ascoltavo, adesso no, adesso non riesco a nulla, zero, riporto zero. Oh, non so con cosa stia trasmettendo, se col portatile o più il piccolino. Col piccolino chiedilo. Il piccolino c'è allora. Ehi, ma chi? E col piccolino Ma lei dì lì che attacchi l'altro, perché con quel piccolino poco fa l'ha ascoltato, un passaggio, poi zero. È muto la radio. Adesso attacca con l'altro, dai. Andiamo via, andiamo, bubu. A me mi ascolta, dottore? No, non ti ascoltano. Non so, boh, forse sì, forse no. Aspetta che sta attaccando il grande. Tutti venduti, vi siete. Buonasera a tutti. Allora, l'ascolti adesso, Bacchi. Ciao, Alessio. Ciao, salutoni, ben sentiti tutti. Ciao, Antonello, buonasera, Zanoli. Graziano e compagni, avanti, Bacchisio. Ehi, Marino, adesso ti ho ascoltato, un po' di QRM ti porti appresso, ma già ti ho ascoltato. Vediamo se ti ascolta Alessio. Buonasera Alessio, ben ascoltato anche per te, vai. Certo che l'ascolto adesso, ci mancherebbe. Sono a casa, con la stazione di base. Io vi sento tutti. Non so se mi abbia girato il palo l'antenna, mi ha fatto anche un piacere. Ed è puntata quasi a Monteoro, figurati. Prima era puntata ad Alte Rocce. Un tubo ci va sopra il tetto domani. Ma tu vai, come l'ascolti a me adesso? Che segnale 8, sì, non sei fondo scala. Invece quando l'altro giorno eri fondo scala, quando era puntata a coso, all'Alte Rocce. Mi ha girato l'antenna del palo, questo vento lì che c'è stato. Capo su! Tutto, anche le cose mi hai girato questo vento. Boh. Oh, Bacchini, ascolti adesso. E mentre corre mi sei marito, non sei pulito tu sei, le altre sere arrivavi a bomba. C'è qualcosa o nel capo o in antenna, qualcosa del genere, c'è, non può essere di non arrivare. Ciao brutto buco. Ciao bello bè. Ciao Luca. È vero, a me pompo mi senti? Certo che ti sento, ha voglia, anche se sei girato lombardo, sei girato, cazzo. Era puntato alla Veloce e oggi mi sono trovato puntato quasi a Monteoro. Tu figurati la foto del vento di ieri notte. Ciao Antone, mi senti? Sì, che ti sento caro. E caruccio! Grazie, mi senti? Sono tutto gonfio, mi... No, sono la balla. Ehi, che ti sento, Mari? Era ora, meno male, qualcuno mi sente, meno male. Io non ascolto Bacchisio invece, boh, allora, questo vento ha fatto un casotto, ha fatto. Bacchisio! Ehi, Marin. Ti ascolto, sì, ma sei in mezzo a quel rem, capito? Sei in mezzo a quel rem, ti ascolto. No, non c'è neanche segnale, prima arrivavi 8, 7, 8, adesso sei 5, 2. Scusa, non ti ascolto, Bacchisio, non ti ascolto. Vedo lei già acceso, ma... modulazione 0.0, non sento niente a luce, strano. Bene, avanti, sto vicino. Sì, questo passaggio è segnale 0, solo radio. Avanti, to. Ehi, caspita. Intendo a tutti, intendo. A tutti quanti. Io non sento nessuno, a te, a Graziano e Antonello, gli altri negativo. Avanti, Antonello. Ehi, non c'è problema, perché lo visito a tutti, anche se... a metà ma già mi sento comunque sia, come si è girata l'antenna, un cazzo ci sa questo pazzetto adesso, ha girato l'antenna, la biglia in culo. Lasciala così che stai uscendo bene, Antonio. Ehi, me l'ha girato il vento, me. Ehi, blocca la cucina, andà bene. C'è qualcuno che sta chiamando avanti. Così passi davanti a Graziano, lasciala così che li passi davanti. Cosa hai detto Graziano? A lasciarla così adesso l'antenna che già sta uscendo bene. Ehi, ma non sei tu, c'è un altro più basso. Chi è l'altro che sta chiamando? Io sono il basso. No, non sei tu, c'è un altro più basso, non ho capito chi è. Stava parlando, non ho capito niente. Era Marino, senz'altro. No, non è Marino, Marino arriva bene, non ti preoccupare. Vabbè, è sparito, vabbè, magari è mollato. Se vuole entrare già chiama, non c'è problema, è in mezzo al QRM proprio, Qua non sento nessuno io, c'è Tore, a Tore lo sento. Ma è certo che lo sento a Tore. Quello squalo, lui. Squalo del pacciappiani? Quello che gli ha mangiato la pinna all'orca. La pinna all'orca. Invece ne ha mangiato un pezzo di rugabbo. Ecco Dovena, stava sguazzando senza la pinna. Ma chi? Non era del coso, era Grazia. Era in tournée. Era a Londra, era. E infatti avanti giusto in greso. Tore, dimmi una parolina in greso. Da voi, cos'è che vuoi? Adesso Bacchisio viene in tournée, in Inghilterra, da Re Carlo. No, da Camilla ero. Eia, vado a aprire. Grazie, sta attento, non vi sia babbui. Camilla, contevi cavolo. Ah, boh, non so cos'è Edo. Ah, beh, quello sì, è vero. Ma che Luca l'avete lasciato in bianco? Si sta dormendo Luca, e Luca avanti. Luca sta già mangiando. Non sta in forno, ma niente Luca stasera, dunque non risponde alla radio. Vai Marino, mandaci un po' d'acqua da lì giù. Ora Marino, è caduto. Marino è all'altro piano. Al terzo piano è andato. Ehi, beh ragazzi, io chiudo là, vi saluto. Ciao Antonella, domani se coincide, ciao Bacchisio, ciao Tore e ciao Luca e ciao chi era ascolto. Riprendetevela. Ehi, buona Pasqua a me. Buon Ferragosto, che ciao, grazie, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere, saluto al QRA, a domani che si coincide, buona serata ancora. Avanti Marino. Marino è sparito. Ciao, grazie, buona Pasqua, ci sentiamo, a domani. Eia, ciao ciao. Ciao, grazie, stammi bene, sogni d'oro. Ciao, grazie. Eia, perché scarico? Questo lo metto a caricare, a domani, dai. Il vento mi ha girato tutto, tutto mi ha girato, non sento nessuno. Cos'è la nostra grazia? Ehi, perché l'ho messo a caricare, si è scaricato prima oggi, eppure stamattina la sotto carica. Vabbè, ciao. Ehi, dai, chiudo pure io, tanto. Ah no, vabbè, 7:30 sono appena. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Mi c'è rimasto qua. Ci sono rimasto io, tu, Tore e Antonello e Marino. Stavo dicendo, Tore, si è finito le ferie. Tore! Ah, farà tu Zemi, Bacchi. Fa riprendere a Marino, io non lo sento. Marino stasera arriva in mezzo al QRM. Deve essere abbia problemi di antenna. Troppa acqua, gli ha bagnata, c'è l'antenna bagnata, lui non gli ha messo l'ombrello e dunque si è bagnata. Avanti Marino. Marino. Bene, ciao. Sì, ti stanno chiamando, che forse non ti ascoltano loro. Lo so, sicuramente il vento mi ha spostato in tela, non sento nessuno. Ho sentito, sento bene a te, Antonello e Graziano che erano via, sentivo, ma gli altri negativo. Il vento mi ha spostato l'antenna, non sento nessuno, avanti to. Ma chi? Ha detto che il vento gli ha staccato un po' l'antenna, gli ha spostato, quindi non so cosa intendete. Ah ecco, per quello è. Perché i bolloni non li ha stretti lui, i dadi, non li ha tirati su, ha lasciati molli molli e dunque l'antenna fa il gioco, compreso. Ci si era staccato il filo invece dell'antenna, di girarla. Si era staccato il cavo. E per quello è. Marì, ma tu no, l'ascolti a Bacchisio e Antonello? Io ascolto a te, Bacchisio, vedo il LED che si accende, ma modulazione zero, neanche a Luca sentivo, niente, nulla, 0.0. Neanche lui ti ascolta, prima ti ascoltava in mezzo al QRM, ma non ti ascolta più. Antonello! Un attimo, Antonello, poc'anzi mi ascoltava in mezzo al QRM perché c'avevo il gommino, ero fuori casa, ero nei piazzali, siccome c'è freddo fuori. E dunque sono entrato all'interno, ho capito? Vabbè. Domani se vedo dirò buon appuccio. E domani speriamo faccio il vento, così me la giro leggermente con la scala a stacco, 2 minuti. Se non ci sia vento. Ascolto, io chiudo, saluto a tutti quanti, mi rimango un po' in ascolto, dai. Ciao Antonio, se mi stai ascoltando, ciao Tore. A domani se coincide, dai. Ok, ciao Mari. Ma chi? Marino sta chiudendo. Ok, ti ho detto di salutarti. A te Antonello. Antonello, tu lo ascolti? Non rispondere prima a chi? Sì, Antonello, ci ha mangiato il tubo. Ciao Marino, se non mi ascolti, ti saluto. Se mi ascolti va bene, se no è la stessa minestra. Anda bene, Luca dicevo, ci arriva e rimettiamo tutto a Luca. Oh, niente, zero, riporto zero. Antonello, il vento l'ha portato via la direttiva e non si sente. Ma chi? Passa, la 27 accesa ce l'ha. Sì, io. Io ce l'ho accesa la 27. E accesa anche tu, ma Mario tu sì. Dai, gira la 27, dai, stavo ascoltando altro. Sì, vai, dai.